caught your skin so wet, black lace on sweat. I hear you calling and it's needles and pins. I wanna hurt you just to hear you screaming. My name don't wanna touch you, but you're under my skin. I wanna kiss you, but your lips are venomous poison. You're terra di Kaki. Ciao, buonasera. E adesso vi leggerò ci siamo una poesia tratta. Non è una poesia. Ma scusa, non puoi interrompere. Dillo te cos'è allora. Non è una poesia. Oh, e allora che cos'è? Non è una poesia. Trafugazione di polvere. Adesso leggerò questa non poesia. Io intanto scrivo la scaletta di come si dovrebbe fare un programma. Ok, ecco, vabbè, inizia. Trafuga la polvere da situazioni antiche per sciogliere gli indugi dell'addio che avanza e si fascia il cuore prima di morire e poi richiama. Descrive curve di fumo finto et sigarette elettroniche, guizzo tra simbolico e reale. Aggrotta pipistrelli nei portabagagli della macchina umana. Forclude un bacio della notte, scivola le labbra sui contorni della grande luna, scuote il capo e annuisce. Ama il sensore che muove l'occhio. Ascende a parametri elettrismi, senza che i pianeti abbiano completato la loro tergiversante coincidenza oroscopica. Scomunicare diverte? Boh. Confeziona pastiglie di fantasia. Non capisco cosa significhi confezionare pastiglie. Sicché l'ho lasciato fare. E ora ho la stanza di gomma. Vuole coinvolgermi in qualcosa per cui valga la pena esserci. Non riesce. Prenota un posto vuoto e parte per la tangente al cerchio distinto. Inizia. Incontri. Te l'ho detto. Non ha sbagliato treno. Lo spettacolo è andato una meraviglia. Ha sentito che nello stomaco prepara il pranzo. Il mare è l'insieme delle opinioni. 02 del 22 aprile 2010. Scrive che alle 18 ha un appuntamento col padrone della mansarda in cui dovrebbe andare ad abitare. Dice: scusa Victor, sono le 11 e devo scendere per comprare l'acqua e il pane, così mi sgranchisco, piglio un po' d'aria e poi torno a pranzare. Intorno ci sono solo lamiere ossidate e vetri crepati, strati di plastica ancora attaccati lungo il perimetro di parabrezza cristallizzato. Niente domande, per favore. Sì. Perché? No. Sono Peter Stillman. Lo dico di mia spontanea volontà, non è il mio vero nome. No, naturalmente sono un po' fuori di testa. No. Ma forse non ci si può fare niente. Viene chiamato parlare, le parole vengono fuori per un momento e muoiono. Strano, no? Io personalmente non ho opinioni in proposito. Se riuscirò a darle le parole di cui ha bisogno, sarà una grande vittoria. Grazie. Molto tempo fa c'erano mamma e papà. Dicono che mamma è morta. Dico quello che dicono loro perché io non so niente. C'era questo buio, molto buio. Buio come il buio più buio. Loro dicono quella era la stanza. Neanche una finestra. Povero Peter Stillman. E il boom boom boom. I mucchi di cacca, i laghi di pipì. Mi scusi, non più. C'era della poltiglia da mangiare nella stanza silenziosa. Lui mangiava con le mani. Scusi, voglio dire, Peter mangiava con le mani. Io sono Peter Stillman. Non è il mio vero nome, grazie. Il mio vero nome è Mr. Triste. Lei come si chiama, Mr. Oster? Forse è lei il vero Mr. Triste e io non sono nessuno. Cosa faceva Peter in quella stanza? Non lo può dire nessuno. Qualcuno non dice niente. Quanto a me penso che Peter non poteva pensare. Sbatteva gli occhi, beveva, puzzava. Mi scusi, certe volte sono proprio buffo. Tarara, click, sbrush, bobobo, mugi, tac tac tac letto. De suoni stupidi, promozzi molto, mastimanna, yeah yeah yeah. Mi scusi, sono l'unico che capisca queste parole. Dicono che qualcuno mi ha trovato. Io non ricordo quando è entrata la luce. Portavo degli occhiali scuri. Avevo 12 anni, stavo in ospedale. Peter era un bambino. Piccolo. Dovevano insegnargli tutto, a camminare, a mangiare, a fare la cacca e la pipì nel vaso. Anche quando li mordevo non facevano boom boom boom. Ma non era facile insegnargli le parole, la sua bocca non funzionava bene. E naturalmente era un po' fuori di testa. Ba ba ba diceva, e da da da. Ci sono voluti parecchi anni, adesso dicono a Peter. Va adesso, noi non possiamo fare più niente. Peter Stillman, sei un essere umano. Grazie tante. Basta Kalos. No. Basta Kalos. Basta Kalos. Ma fa schifo, ma proprio schifo. Cazzo. happened to you? 17, you are 25 and you're still so green. And you shut your eyes and you can't even dream. Hey! Is it good to be 25 when you're good looking but you ain't alive? I think you don't care and I'm not surprised, yeah. Is it good to be beautiful, yeah? Is it good to be beautiful, yeah? Is it good, is it good, is it good? Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, batzo, uoto, cazzo. Oh, ma che... ma basta! Ma che, non lo so, si è incantato il disco. Che abbiamo capito, cazzo. È una parola che non si può dire dopo le 22. È scritto... Dove? Nel manuale del giovane radiofonico. Ma secondo me voleva introdurre la notizia che tutti ha colpito questo, in questo giorno. Questo è formale, sì, è vero, sì. È scritto sul giornale. Cosa c'è scritto? Cosa sul c'è passato, scritto? Ho detto, pornostar... pornostar a punto radio, no? Cosa? Magari niente. No, pensavo PD. Com'è la notizia? Non l'ho visto la civetta, però no. È stata arrestata. Calos e il DJ non si mettono d'accordo. No, ma giusto. Fatti gli affari tutti tuoi. Tutti non si mettono d'accordo con tutti. Questo, allora, dovete sapere che abbiamo questo programma nuovo alla radio, un programma al computer che controlla gli speaker e fa questi commenti. E dobbiamo io ossequiare okay, in silenzio. Ok, taccio. Ecco, oh, grazie. Facci fare il programma, i commenti, fallo dopo. Falli dopo. Allora, dicevi, questa notizia è stata arrestata questa ragazza? Non è stata arrestata. Non è stata arrestata, è stata grazie stata dimessa a voi. Da segretaria del PD questa ragazza perché faceva anche la porno attrice. Poveraccia, scusa, perché scusa? Perché non era del PDL, evidentemente, ma... No, se una fa la porno attrice, se paga i contributi, non lo so, per me va bene. Per te va bene, ma a me sinceramente non interessa. Te Gianluca, se paghi i contributi? Cazzo, pazzo, cazzo, lazzo. Ecco. Forse sì. Ma cos'è? Una nuova speaker che vuole partecipare al programma? Sta facendo delle così di scioglilingua? Fagli dire, sopra un palazzo c'è un cane pazzo. Top, viva il lazzo. Cane, sto sotto... pezzo di pane. Mamma mia. Faglielo dire questo, prova un po'. Quello che non potrei dire io, perché ci sono troppe Z, però. Ecco. Che brutta cosa da dire. Ecco, dopo ci proveremo. Intanto, non so, continua un po' questa notizia, allora l'hanno... si è dimessa. L'hanno no, fatta l'hanno dimettere. Fatta dimettere perché hanno confrontato delle foto che aveva sul profilo di Facebook con... con le cassette che aveva il segretario a casa. Sì. E ha detto, ma infatti, lei. Infatti è questo che mi sono chiesta, ma come hanno fatto a capire quelli del PD? Cioè vuol dire che un altro c'è stata del una PD spiata stava del PDL, vedendo... C'è stata una spiata. No, no. Secondo me stava qualcuno vedendo il filmato. Ecco, dai. Secondo voi, facciamo questo sondaggio a casa, secondo voi le porno star... devono stare con la sinistra o con la destra? Ecco, questa è una domanda che potrebbe suscitare l'interesse del popolo. Ma secondo me avrei una risposta che io. Parliamo della porno star comunista, la dava a tutti. Ecco. Eh sì, molto probabilmente. Il computer è informatissimo, quello, però. Devo dire che sa tutto, eh. Ma secondo me è un'altra domanda fondamentale che potremmo fare: perché questo programma non è ancora chiuso? Ecco. Era perché... comunista. Chi? Sì, era il comunista. Programma. Sì. Qualcuno sì. Era comunista, eh? Non so, però visto che fai anche il DJ oltre al computer, se metti anche magari era comunista la porno star. Ah, io ecco. A proposito di questo metterei un pezzo in particolare, mettiamo The Girls of Porn. Vai, Mr. Bungo. Eh già. Motherfuckers out there, it's time to win a chance to pot bang your daughter's tight virgin cherry ass. Caller number 666. sopra un palazzo c'è un cane pazzo, tu pazzo cane sto pezzo di pane. Sono stata a Pacazzo Chigi. Sono stata a Pacazzo Chigi. Sono Berluscazzo che non sei altro a We got Sade and the taboo. We got girls who eat your pee and poo. And guys who'd love to fuck your shoe. There's been and we got mama who's so much grief. Non sono razzista, sono cattista. DJ, bravo DJ, bravo DJ, bravo. Oh, finalmente questi suoni non sono sul disco, sono qui in studio e ci stiamo divertendo un casino. Yes. E, e allora abbiamo anche un ospite che ogni tanto ci viene a trovare, ma stasera è sprovvisto di microfono. Gli chiediamo se gentilmente. No, ma lui non vuole parlare. Non sa che non deve dire niente. Sto zitto. Niente. Mi codice fiscale? Non so, mente. Ecco, ma di solito in questo programma quando non si sa cosa dire si dice a casa. Quindi... Se no chiediamo appello al nostro scrittore che inventa. Che sta inventando, sta pensando, non lo so cosa gli sta brillando nella mente. Cos'è che gli sta balenando nella testa? Penso che un'idea il condizionatore gli abbia ghiacciato il sudore addosso. Ormai pendiamo dalle sue idee. Infatti notate come col braccio incrociato così riesce a gestire. Ma si può vedere dalla webcam computer. Come si muove? Sì, perché sì, sì. Secondo me è interessante. Dalla webcam lo potete proprio riconoscere sicuramente. Gianluca è quello con le cuffie. Ciao, stai zitto. Okay. Che adesso ha smesso di parlare con la sua bocca, usa questa interfaccia informatica. Ma perché oggi una donna? Speech woman. Perché ecco. Oggi? Perché oggi parli con la voce di una donna? Cioè, però sei un po' lento a rispondere. In effetti. È da uno scrittore questo proprio. Dovrebbe scrivere a quattro mani. Ecco. Sentiamo cosa vuole dirci. Hai rotto il ferro del mio mestiere, cioè il cazzo. Va sempre sul cazzo. Simpatia, capito, e spirito di patate a gogo in questo programma. Abbiamo capito che lavoro fa. Sembrerebbe di sì, in effetti vedi è in una sala di accoglienza. Sta aspettando, sta aspettando i clienti, i clienti. Allora, se possiamo andare la porno avanti. Star, mi ma piaceva, non siamo visto già che ci siamo. Può una politica fare la porno star? Questa era una cosa di prima, ormai è passata. Questa notizia ormai è rimasta. Perché? Folgorato proprio. Ci sono altre notizie. Ormai è finito. Dobbiamo pubblicizzare il concerto dei Working Vibes, lo sai, il 2, il 2 luglio. Ecco, il 2 luglio dove suonano la Marina, festa. Certo. Non mi ricordo. Il concerto. Concerto. Ora andiamo a controllare sulle date così vediamo esattamente il concerto, certo. Il concerto certo. Il concerto è certo. Meno che non diluvi, penso che lo faranno. Io metterei tipo un pezzo, ecco. Per esempio, non lo la so, musica non è che puoi stare a parlare molto. 40 musica anni, è ma bella, visto che non abbiamo ancora fatto il momento dei cazzi nostri, approfittiamone di questo vuoto dato dal DJ che non dovrebbe darlo. Esatto. Stasera devo dire una serata proprio rilento. Stasera serata Bradipo. Volete salutare parenti, amici, boh, non lo so. Questo mi piace, un gargarismo velocizzato. Approfittatene adesso. Non lo so, abbiamo finito i dischi, non ci sono più dischi. Non ci sono siamo più dischi. Siamo musica dal computer, da internet, dalla parabola. Sentiamo i nostri bellissimi comunque, bellissimi amici internauti che cosa dicono se vogliono salutare il cane, il gatto. Sai vabbè, una filastrocca perché... da aggiungere a questo? Sapete perché Michael Jackson veraccio è morto? No, ecco, io lo sapevo. Eccolo Michael veraccio, bacia l'anima sua. Non era riuscito a schiarirsi la voce. Ecco, vabbè, bello, il disco. bello, stasera non ci ascolta nessuno. Finalmente il callo si è sentito anche in diretta, spero. Vabbè. Sì, è bella questa cosa, però. Sì, siamo qui nel bunker. È bello spendere tutte le volte i soldi di benzina per arrivare qui e vedere che non ti ascolta nessuno. Gli ascoltatori hanno messo il piombo sull'antenna per non riceverci. Già non ci pagano. Proprio come le onde radioattive, proprio. Su internet non va lo streaming, quindi... Quindi facciamo cacare. Io ti sento. Ah, per così, per testare. Quindi non lo so, visto che non funziona, cosa avete fatto ieri? Ma questa settimana è tanto che non ci si vede. Parlavo del più e del meno. Diciamo che la sensazione è quella di vivere sospesi, no? E non so, dicono che sabato passano col camion dei fucili. Non so se volete venire voi. No, io sabato sono una fiera del fumetto. Ah, peccato. I fucili? No, questo è un messaggio in codice. Ah. Che soltanto quelli che ascoltano sempre la tele dei cacchi ormai da tempo immemore possono capire. Chi è la domanda giusta, secondo Ma devi sapere che siamo anche ascoltati da noi stessi, da frequenze così alieni. Metti caso che gli alieni hanno la possibilità di collegarsi con le radio terrestri e poi ridono, capito, così ascoltano, dicono ma sono stronzi questi, capito? Oppure ma perché mi sono collegato con la radio terrestre proprio ora? Ti immagini, su un altro pianeta hanno inventato una radio che capta tutti i segnali. O nell'universo ci sarà un miliardo di pianeti come il nostro, così captano, sentono la terra dei cachi. Secondo te capiscono tutto? Ma secondo me capiscono. Ora ci telefono 050 71 00 71. Se chiamate da un altro pianeta, il prefisso non lo sappiamo. Ma diamo anche la SMS line, che io non ho mai capito come funziona la SMS line. Dove li leggo io i messaggi che ci mandano, che non ci mandano, però vabbè. L'SMS line si dovrebbe leggere sull'altro monitor, il numero è 36 63 40 60 20, e inviate pure i vostri messaggi che noi ve li leggeremo. Your mystery is history, and I'll find you. Finalmente è finalmente finito questo strazio. Finita questa canzone, ma cos'è? Gli The Orb? Ma non lo so, sono degli orbi. Degli orri. Allora, io voglio dire, voglio fare, una, voglio fare un appello. Voglio fare un appello a noi tutti, me compreso. Cioè, non si può andare avanti in questo modo. In quale? Appunto, in che modo andiamo avanti? Dove veniamo? Dove veniamo? E quando andiamo, no? Come, perché? Cioè, dove veniamo? Dipende dai posti, dalle persone. No, questa è una trasmissione, come giustamente dice il nostro amico Stradivari 2. Sì, ma voi fate cacare davvero con sta diretta che non va mai. Perché effettivamente la diretta non va mai. E quando va non ha senso. No, vabbè, quando va non ha, sempre non ha senso, direi. Sì, salutiamo la Lamberti, Chiara, che ci ha scritto, sì, e ha scritto che è felicissima di ascoltare questo programma, che le piace tantissimo. Secondo e... me sta troppo male, Chiara. Veramente ci ha chiesto, ma dove siete? Sono la Lamberti. Secondo me ha sbagliato chat, stava chattando da qualcos'altro e chissà, comunque, lei ci sta sentendo dalla radio o dal Chiara computer? Chiara Lamberti, se ci ascolti, chiamaci. Se ci ascolti dal computer, facci sapere allo 050 71 00 71, perché noi dobbiamo sapere se funziona sta diretta. Esatto, vogliamo una testimonianza. Si vede che la webcam non funziona, però magari la musica no. Nemmeno quella, però chissà. Gianluca, tutto a posto? No, assolutamente sì, guarda, va tutto in questa maniera così abbastanza male. Liberiamo la formica qua. Sì, poi imprigionate le formiche, se viziate le caprette, ma io non lei lo so. Sopra, guarda. No, non ci scherzi. Ah, il mostro che questi ti cammina. Questi scherzi da prete. No, ho detto prete. No, non possiamo nominare questi. Ah, ho detto scherzo. Sei una blasfema. Sì. Ma perché, scusa, lasciamo stare i preti, poverini, che quelli non c'entrano nulla con Dio, insomma. Quindi, ora forse ascoltiamo questo. Avevamo questa, detto una cosa del genere quando poi... Comunque sto leggendo Sant'Agostino, anche Sant'Agostino. No, volevo consigliare un video anche su YouTube che c'è, Zeitgeist. Ah, ecco. Zeitgeist, l'hai visto, Sara? Mi sono addormentata. Magari ecco, se voi scrivete, però non... diciamo siccome però non... in effetti la prima ora lo metà mettiamo, l'ho vai, metti un pezzo che lo cerchiamo. No, appunto, diciamo, siccome non ho otto mani come un ragno, vorrei che non anche otto mani voi... come un persiano. No, ha due braccia lunghe come il bradipo. L'ottomano, ottomano. Però mi alcune volte le donne hanno detto sembri un polipo. Invece ho due mani sole. Chissà cosa sia, forse perché cosa sei senza capelli. Cosa avrebbe voluto dire? Voleva dire sei un bilopo. Gli dovevi dire ma in testa o nelle braccia? Negli occhi, in fuori, nel polpo. Al massimo un quadrolopo. Un quadrolopo, no? Un quadrolopo. No, volevo portarti a conoscenza che tu sei quello che mette la musica. Ma l'importante è che noi tutti siamo bipedi. Ecco. Ma parla per te, perché io sono tripede. Insomma, voglio dire, gli uomini sono sempre col mito della terza non gamba. Lo so, non lo so, sinceramente. Forse sono tripede anch'io, chissà. Può darsi, comincia a avere il sospetto. Bene, sì, meditiamo durante. È tanto che ce l'ho. Ma cosa? E fu così che si svelò. Mamma mia, ragazzi, se ne impara sempre una nuova. Vero? Sono rimasto senza parole. Deve essere parole. Cresciuto durante questi anni da solo. Che visione. Chissà, forse la verdura di Chernobyl. No, adesso meno male che non funziona la webcam. No, quella è la verdura di Chernobyl. Ah, perché si sta vedendo che io sono tripede, in effetti. No, quella è la verdura di Chernobyl. Che insomma c'è questa. Adesso la vivi. Ma c'era o no, Bill? C'era, io l'ho vista. Io l'ho vista, ma infatti io non ho voluto gossipare o sputtanare questo problema qui, perché mi sembrava brutto, insomma, fare un coming out e dire io ho la terza gamba. Cioè, che fai? Orgoglio della terza gamba pride? Terzo gambista. Terzo gambista, cioè, non si dicono queste cose. Su via Ovaie, allora ascoltiamo il brano. Intanto qui se ne sono andati anche tutti, conduttori. Anche conduttori. Sono andati a suicidarsi e sì. I prossimi siamo noi, andiamo a turno. Chi va dopo? Ma io, visto che non mi pagano, sono precari anche in questo. Vai. Il turno peggiore. Di ballottaggio dovrebbero farlo in discoteca. Thank you. i portenti di Facebook. La psichedelia della nostra musica. Sì, il continuo cercare nel registro, nell'archivio, volevo dire, di questa memoria collettiva che sarà l'inconscio elettrico di quando... Insomma, che cosa avete fatto tre settimane fa? Ora siamo a tre settimane fa. Io ricorderei l'evento di Maltomini Marco, quando che suona. Se fermi il Facebook, magari possiamo vedere. Sì. Ah, allora aspetta, vediamo. Rullo di tamburi. Più su. Tamburi. Ricordiamo appunto gli appuntamenti. Giustamente. Ricordiamo Marco Maltomini. Sabato 2 luglio dalle 21 alle 23 al Marea Festival di Fucecchio. No, dalle 21 alle 23? Sì, sì, dalle 21 alle 23 ininterrottamente. Le fa tutte, sono pazzo, t'ammazzo. Quindi chi abita in zona o anche chi non abita in zona, se è vuole andare, di recarsi a questo concerto. Altrimenti sempre scoprire il sabato 2 può venire dalle 4 a mezzanotte a Pisa. Che c'è a Pisa? Che c'è una manifestazione di fumetti dove io non sarò. Sì, sarò, però così a caso, no? Come sarai vestita, Sara? No, questo domenica 3. Domenica 3 sarò vestita da infermiera sexy, ma perché c'ho solo quello a casa. E quando è che l'hai usato questo costume da infermiera sexy? Quando facevamo i concerti degli ASOB lo usavo, sì, no, non pensate. Non in intimità, insomma, che no, c'è questo... Chissà, forse. Questo camouflage. Chissà. Tu Gianluca adori questo feticismo, queste no, cose? Assolutamente no, perché io amo le cose, diciamo, no, il fetish non mi piace, a me no, piace, questo... assolutamente non mi piace il fetish. Non... capito. Abbiamo capito perché che perché inizia dice a me piace, non dice cosa, è questo che no, ci lascia non un po' piace quella voglia di... tenerezza del fetish, diciamo, quel romanticismo, pisciarsi addosso, effettivamente tenerezza. È un romanticismo, sì, quella cosa, sì, è troppo intimo, dai, sì, pisci addosso alla ti gente, comprometto. Non so se avete visto la contessa Ripa di Meana che ha tirato un bicchiere sì, di piscio addosso, un gesto d'affetto a Sgarbi. Non so se l'avete visto, ha sì, girato questo video. Fra l'altro direi che ha beccato proprio il luogo giusto dove... Ma io sono rimasto nel dubbio se era veramente piscio o pipì o no. Chi lo sa? Urina, chiamiamola urina. Sgarbi da signore non ce l'è per non ti si sente. Cioè a dire che Sgarbi di pipì, insomma. Ma poi c'è dire che Sgarbi da signore non se l'è presa, non no, si è offeso. Me si è abbastanza contenuto, perché io alla Ripa di Meana gli mollavo un cazzotto. È che Sgarbi no, ci è abituato. Ma secondo me c'era dell'astio capola, perché ho visto che le ha tirato proprio con cattiveria, proprio. Non gli ha detto piscio d'artista, proprio ha tirato il piscio d'artista, proprio così. Ah. Ma perché dice che non ha voluto esporre le opere del marito di lei? Ah, quale marito? Questo? Dice, quale dei mariti? Però secondo me, quale? L'ultimo? L'ultimo? Uno dei tanti. No, più che altro non sanno più che inventarsi, sì, per far finta di inventarsi qualcosa. Già insomma. Sgarbi si era secondo tagliato me la testa da solo. Erano d'accordo, era te... che si erano scaldati prima, l'avevano bevuto. No, era secondo rimasto. Me però era proprio piscio. Beh. Uno dei due è il mistress dell'altro. Chissà chi sarà. Per renderlo stress proprio vero, allora... Che darci. Bello, la Veti 307 anche oggi è finita. Mamma, come sono felice. È la prima trasmissione in cui il DJ è felice che finisca. Anche noi lo siamo. Ma veramente anche gli speaker, in effetti. Gli speaker. Tutti a casa, il mondo proprio, i preti che, poveracci, questo, sono costretti. Basta, secondo me, ma... mettetevi nei panni di quel poveraccio... di quel novizio che si deve sorbire tutta la nostra trasmissione. Che cambi canale? Ma perché deve sentire? Ah, perché dici che ce n'è uno proprio che deve ascoltare. Perché altrimenti com'è che ci arrivano queste richieste di verifica su delle frasi dette o non dette, così. Quindi c'è qualcuno che quindi comunque, c'è qualcuno che segnala probabilmente. Secondo me c'è un circolo novizioso, c'è qualcosa che ritorna indietro al 39-45, credono loro, in realtà siamo nel 3040 e stanno arrivando gli alieni sotto forma di gas. Di gas. Ok, ecco. Allora ascoltiamo. Che Carlos riesce a fare degli alieni a volte. A voglia. Io no. Col culo, fa degli alieni no. Gassosi. Sì. Vabbè, scusa, non essere volgare, potevi dire. Sta volgarità. Fa degli extraterrestri col ma culo. Ma scusa, ha detto gli extraterrestri gas. Cioè, scusa. C'è chi li fa con la bocca quando parla di politica. E c'è chi li fa. Bologna. Ah, salutiamo i bolognesi all'ascolto. Ma perché? No, ma non è una bella cosa. Così sembra che sono i bolognesi che ruttano. Sono no. Vabbè, questo faceva salutiamo molto Marco Giacomo, Borgia, tutti i nostri grandi amici. E chiudiamola qua, insomma. Sì. Qua. A questo punto direi proprio di chiuderla qua, di salutare tutti i nostri ospiti che pazientemente non ci hanno ascoltato. Quindi salutiamoci da soli. Gli ospiti ci ascoltano. No, sì, sta arrivando Acidone che ha fatto lo spot e noi no, cazzo. Acidone è avanti, ragazzi. Ha fatto lo spot. Programma malato. Dieci anni c'è lo spot. Sì, l'ho sentito stasera alle 10, quindi. Okay. C'è anche sempre l'officina siberiana. Salutiamo. Quindi non l'abbiamo siberiane. Sentito nemmeno fino in fondo, in realtà. Gianluca, ti sei anchilosato il dito? Assolutamente no. Allora, buonanotte a tutti, buona Pasqua, buon Ferragosto e felice 1999 con... con... Niente, ci sentiamo con lasciamo ma la polizia immaginare. La polizia, sì, è la zia cattiva la sorella cattiva di mia madre, la polizia. Beh. Vabbè. Ciao. Chiudiamo e stendiamo il capo della pietoso. Polizia, lo sapete come si chiama? Come si chiama il capo? Ma Manganelli? Sì. Vabbè, ma è tanto. Vabbè, ma sì, ma è vecchia, dai, su. Che poi da me l'hanno fatto capo della polizia proprio per quello. Come ti chiami, Manganelli? Sì, noi lo facciamo capo della polizia. Invece la poliziotta è la zia... Riapriamo vecchie battute satiriche. La poliziotta è la zia più anzianotta. Ok. Dopo questo, buonanotte. Noi andiamo a suicidarsi, Se volete venire a vederci, ma farci compagnia. Ok, buonanotte. Ci vediamo al cimitero. Ciao. Okay, ciao. Buonanotte. Non fiori, ma opere di bene, mi raccomando. Buonanotte. Love the way you raise me.